Partiamo per Ravenna, siamo al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna, in mostra, inizia leggermente in ritardo, ma come vi ho detto oggi è una puntata particolarmente ricca di contenuti, di esposizioni e di last minute, tra altri suoni e jazz. Ora è il momento dell'arte, siamo a Ravenna e ospita l'esposizione I Am a Mosaic. È un evento che celebra l'arte del mosaico attraverso un percorso che va a esplorare l'evoluzione di questa che è un'antica tecnica dall'inizio del XX secolo fino ad oggi. In occasione del centenario della Scuola del Mosaico dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna e avremo la voce di Paola Babini, a tale proposito la mostra offre questo sguardo unico che vi è nelle trasformazioni, nelle sperimentazioni che hanno poi caratterizzato il mosaico nel corso del tempo tra tradizione e innovazione. L'intersezione con tanti artisti di cui ci parlerà Paola Babini, non ci resta che iniziare a conoscere, darne anticipazione. Quello che caratterizza questa puntata con gli appuntamenti che vi ho dato per quanto riguarda gli aspetti sia musicali che anche di espressione espositiva è che abbiamo una partenza imminente, sono tutti praticamente dei last minute, quindi iniziamo subito a conoscerne in approfondimento con la voce di Paola Babini, direttrice per quanto riguarda l'Accademia delle Belle Arti della città di Ravenna. I'm a Mosaic, un viaggio nell'arte musiva contemporanea al MAR di Ravenna. E a partire dal 12 ottobre siamo in compagnia di Paola Babini, al quale do il buongiorno. Buongiorno Paola e benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Cominciamo la nostra conversazione parlando appunto di questa rassegna tra esposizioni con un'importanza particolare anche per una ricorrenza. Ci può dire qualcosa di più? Questa mostra celebra il centenario della nascita della scuola di mosaico dentro l'Accademia di Belle Arti di Ravenna. Per noi è un evento eccezionale perché vuole proprio mostrare quanto sia stato importante porto con questa scuola, sia a partire proprio dalla nascita della stessa scuola, da tutti gli eventi che si sono susseguiti proprio nel tempo, soprattutto a partire dal 48 in poi, dove nasce dentro alla scuola di mosaico il gruppo Mosaicisti, che darà vita a mille connessioni rispetto al mosaico e alla realizzazione di mosaici a livello nazionale e anche internazionale. Ci saranno interazioni e intersezioni con altri artisti. Ci può dire un po' di questa formazione, chi saranno, chi sono? Beh, la mostra vuole proprio essere un percorso che mostra gli intrecci e le connessioni che si sono create grazie a questa scuola. Ci sono, la mostra è divisa in sezioni, una prima parte storica che tratta proprio anche il tema della grande decorazione murale e della rinascita del mosaico negli anni 30, cioè proprio gli anni della grande decorazione, e quindi abbiamo in mostra dei cartoni meravigliosi di Sironi, di Mario Sironi, di Achille Funi e alcune tavole che vengono proprio dalla Biblioteca Classense di Ravenna, che mostrano lo studio che veniva fatto a partire da quegli anni anche sui nostri mosaici bizantini. Dopo la parte storica sarà messa in relazione con quello invece che è l'attualità del mosaico e quindi le nuove tecnologie, e quindi nello stesso piano della parte storica ci saranno opere di Fabrizio Plessi, quindi opere interattive, e di Davide Coltro, e artisti che stanno usando appunto le nuove tecnologie con questo concetto proprio del pixel, della ripetizione del pixel e l'idea di una sorta di mosaico liquido, che è un tema molto caro a Fabrizio Plessi, che tra l'altro lui coniò proprio anche da una lectio magistralis fatta all'Accademia di Ravenna nel 2014-2015. Poi tutta una sezione molto importante legata al Novecento, a partire dagli anni 50, con un'opera importante di Lucio Fontana, un concetto spaziale che viene proprio dalla Fondazione Fontana e mostra quella che è stata anche una grande ricerca di Fontana rispetto al rapporto con la luce, e quindi l'utilizzo della tessera o di queste pietruste di vetro che lui inserisce anche nei concetti spaziali. Mm-hmm. ho voluto portare queste sonorità Hawk and the Hawk Show dal disco The Way to Wind Blows. E per quanto riguarda questa via da cui soffia il vento, il live degli statunitensi a Hawk and the Hawk Show, che proporranno una magica miscela di sonorità balcaniche, danze magiare, la tradizione klezmer e arie medio orientali, come state ascoltando. E questo con il mosaico, sì, perché vi è l'incontro nella serata del 12 ottobre al Bronson di Ravenna, in collaborazione con Ravenna Tourism, a disposizione degli utenti, attiva anche modalità di incontro gestita dal mercato coperto. Sarà una piacevole serata durante la visita stessa del museo. Dalle 22 il chiostro interno del museo si animerà con un sottofondo musicale che accompagnerà i visitatori ai due momenti musicali protagonisti della serata. Come vi ho detto, Bronson Produzioni, Ravenna Tourism, il live di Hawk and the Hawk Show, come vi sto dando anticipazione. Hanno inciso per la Leaf Record, americana label attenta per produzioni indipendenti che spaziano dall'elettronica all'ambient a un folk, weird folk, e in questo caso anche con la tradizione dall'est Europa, dal Balkan klezmer, fino ad arrivare ad oltre. Ma parliamo con Paola Babini di quello che sarà all'interno del Mar, oltre che la possibilità di ascoltare questa musica, la possibilità di aggregazione, ma soprattutto I'm a Mosaic, con il centenario di incontro e di sviluppo dell'arte emusiva. Quindi diamo anticipazione anche di un'entrata in mostra con il percorso dell'esposizione stessa. Dicevo, un grande nucleo di opere di artisti del Novecento, che va anche in un certo senso a completare quella che è la grande mostra dei mosaici del 59, che è una collezione permanente già presente nel museo, e mette proprio in relazione l'operato del gruppo mosaicisti che realizzavano, che si mettevano appunto in relazione con questi artisti del Novecento, come, non so, Boetti, Morlotti, Capogrossi, Campigli e molti altri, realizzando questi mosaici da partire proprio dai cartoni degli artisti stessi. Un'azione molto interessante dedicata alla transavanguardia, perché chiaramente negli anni Ottanta gli artisti della transavanguardia, che è stato forse uno degli ultimi movimenti artistici come movimento, diciamo, che hanno recuperato tutti i linguaggi dell'arte e in particolare anche quello del mosaico, e da lì anche il grande sviluppo delle opere d'arte pubblica come la Metropolitana di Napoli ed altre opere importanti di arte pubblica che sono nate proprio in quegli anni. La curatela è di Emanuela Fiori, Giovanni Gardini, Giovanna Castese, naturalmente mia, e nel catalogo abbiamo alcuni saggi molto interessanti di Alberto Giorgio Cassani e di Daniele Corcellini. E per concludere troviamo anche un'interazione col pubblico per genitori e bambini e visite guidate per tutti. Ci può dire qualcosa di più? La mostra si conclude con una sorta di laboratorio per mostrare proprio quanto il mosaico sia ancora oggi arte viva, anche per noi Accademia di Belle Arti di Ravenna, che è l'unica in Italia ad avere l'indirizzo del mosaico. E quindi, appunto, dicevo, chiudiamo questo percorso di mostra con la ricostruzione di un laboratorio attivo lì in mostra, dove c'è la possibilità proprio anche di toccare con mano le tessere e poter pensare anche operazioni didattiche legate allo svolgimento del lavoro mosaico. Fino a quando sarà in esposizione? La mostra si chiude in gennaio, 12 gennaio. Ed è una possibilità che Ravenna con il Mar ci offre, un viaggio nell'arte musiva contemporanea, I'm a Mosaic. Io la ringrazio tantissimo per questa anticipazione, siamo in apertura contemporanea con la presentazione stessa, per cui insomma abbiamo il periodo esteso e la possibilità di seguire questo importante motivo di incontro. Le auguro una buona giornata e grazie ancora. Grazie a voi e a presto, tutti a vedere a Ian Mosaic. Grazie. Hawk and Hawk Show a disposizione all'interno del Mar, questo chiostro interno del museo. Allora, siete mai stati al Mar? Al Mar? Il Mar è una sede espositiva meravigliosa, non solamente per gli spazi, ma anche per come disposizione e bellezza estetica di accoglienza sia all'interno che all'esterno. Quindi questa possibilità, in occasione della ricorrenza che ha appena descritto la dottoressa Babini, direi che è un'ottima occasione. L'apertura sabato 12 ottobre, quindi ben orgoglioso e contento nella rubrica In Mostra di portarla in anticipazione sulla frequenza di Radio Città Fujiko. Grazie Paola Babini dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna. Tra pochissimo procediamo con le grandi esposizioni, andremo in quel di Trento, quindi in questo caso prepariamoci a un viaggio non solo nello spazio ma anche nel tempo. Tutto ciò dopo la pubblicità, a tra poco. Buono quel cocktail. Il corner. Ehi, amore, stai sognando, sveglia. Oh, perché mi hai svegliata? Stavo sognando il corner drink and more. Non c'è bisogno di sognarlo, ho già prenotato per stasera. Così potrai davvero gustare i loro fantastici cocktail. Io invece prendo quel buon vino dell'altra volta. Nessun problema per il parcheggio e ci rilassiamo mangiando anche qualcosa di buono. Corner Drink and More, via Emilia 167F, San Lazzaro di Savena. 388 184 40 43, anche sui social. È un tripudio di profumi, colori, frutta, cereali, verdure e carne selezionata. La cucina libanese è il mix perfetto ed equilibrato, sano e gustoso. Ristorante libanese Beirut Snack. Vieni a scoprire gli speciali falafel con hummus, lo shawarma artigianale e tantissimi altri piatti. Beirut Snack. Aperto tutti i giorni, pranzo e cena, in via dei Carracci 69, dietro la stazione. Beirutsnack.com. La perla della cucina araba. Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. Parcheggio gratuito. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Al Mar, il Museo d'Arte della Città di Ravenna, ti aspetta una mostra straordinaria, Aima Mosaic. Oltre 100 opere raccontano un secolo di intrecci dell'arte musiva con le principali correnti artistiche italiane, da maestri come Severini, Sironi e Fontana, fino alle visioni contemporanee di Paladino, Plessi e Samori, celebrando il centenario della Scuola del Mosaico dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna. Dal 12 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025, Aima Mosaic, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.